Capitolo 4. Il racconto di Hildegard. Sono Hildegard, figlia di Mor Riogain. Sorella Sabina, tu hai aspettato 50 anni per essere riconosciuta dal mondo degli uomini. Io ne ho dovuti aspettare quasi 1000. Fui chiamata la Sibilla del Reno. Le mie prediche risuonavano da Treviri a Colonia, da Liegi a Magonza, da Würzburg a Metz. Ero ascoltata dal Barbarossa e da Bernardo di Chiaravalle e fui autorità dottrinale nei sinodi del mondo ecclesiastico, senza mai essere considerata eretica, nonostante la mia durezza nei confronti di chi esercitava il potere. Imperatori e papi mi consultavano e chiedevano il mio responso come adolescenti spaventati. Ciò nonostante, di me tutto fu ignorato o occultato fino a pochi anni fa del tempo terrestre. Dall'inizio dell'umanità io assolvo il mio compito come porta dell'Ovest insieme a Miriam Magdal, che è quella dell'Est. Insieme manteniamo l'Axis Mundi e così per sempre sarà. Vissi accanto alle creature del mondo di superficie e fui chiamata in molti modi, ma rimango sempre la stessa da millenni del tempo terrestre. Nel corpo di Hildegard, fin dall'età di 3 anni, ebbi visioni fortissime accompagnate da emicranie. Le visioni mi mostravano il cosmo, le sue origini, i suoi segreti e le sue leggi. Quando a 8 anni fui condotta al monastero di Disibodenberg per esservi internata in clausura, affidata alla madre Jutta, avevo già dentro di me molti dei semi che in seguito avrei sviluppato nelle mie opere di medicina, musica, cristalloterapia e botanica. Ma la madre Jutta mi ricordò come leggere e scrivere le parole e la musica in questo corpo. In seguito, grazie ai libri ai quali ebbi accesso, trovai solo conferme di ciò che già era impiantato nella mia memoria cellulare fin dai primi tempi del sapere, poiché io ho tenuto il calice e il mantello della dea durante le ere. Sebbene generalmente si dica che ho rischiato il rogo più volte nella mia vita terrena, di fatto non fu così. Al tempo in cui vissi in quella terra centrale dell'Europa, allora chiamata Franconia, le donne esercitavano la medicina della natura alla luce del sole senza paura, anzi con grande rispetto, e non erano perseguitate. Tuttavia non leggevano e non scrivevano. Il loro sapere era esperienziale, veniva tramandato attraverso la pratica da una donna più anziana a una più giovane che diventava sua apprendista. Ma io, nel monastero, potei studiare e per questo vi rimasi. Potei fare molto di più da badessa che da laica, sia per me che per gli altri. Del resto, Disibod, a cui era intestato il monastero di Disibodenberg, era irlandese e seguace di San Colombano. Sapete bene che il cristianesimo irlandese era impregnato di conoscenza che proveniva dalla ritualità druidica. Tu stessa ne hai dato conferma, sorella Brigid. E grazie a lui, nei miei primi anni di noviziato, venni a conoscenza del particolare misticismo druidico che affiancai armoniosamente alle conoscenze alchemiche ed esoteriche. Potei anche istruire molte sorelle, che erano le mie figlie nel convento, e poiché ero badessa e non obbedivo a nessuno, tantomeno all'abate che pretendeva di avere la mia sottomissione, potei sperimentare in tutta libertà la potenza del fungo che mi agevolava le visioni, il piccolissimo psilocibe semilanceata. Lo assaggiai, per caso, un giorno insieme ad altre erbe selvatiche raccolte per l'insalata e scoprii che mi risparmiava l'emicrania postuma e la fatica di andare in trance con il digiuno. Utilizzavo anche la datura, la muscaria e talvolta della radice di mandragora o un po' d'oppio. Anche il vischio, che libera l'energia della quercia e la utilizza. Le sciamane da sempre conoscono questo principio dell'energia vitale delle piante e lo applicano per scopi terapeutici e magici. Nella natura vi sono forze invisibili che è sufficiente liberare e utilizzare. Così andavo raccogliendo le cose selvatiche che trovavo passeggiando nel bosco e nel campo. Una di queste mi paralizzava per giorni, come se fossi morta. Ma ogni volta mi risvegliavo con informazioni, risposte e visioni. Le mie visioni non erano estasi né sogni, bensì immagini, interiori, in cui conservavo la vista sensibile. Quando entravo in quegli stati di coscienza alterati e aperture verso mondi superiori, io rimanevo cosciente di ciò che mi circondava e di ciò che stavo facendo. Vivevo nella dimensione quotidiana e contemporaneamente in quella cosmico-soprannaturale. Lasciai scritto esattamente cosa provavo durante quei momenti. La mia anima volava in alto e si espandeva in luoghi e terre lontane. Io le vedevo dentro la mia anima, ben sveglia di giorno e di notte, mentre i miei occhi esteriori rimanevano aperti su quella che si definisce realtà ordinaria. Dunque non perdevo i sensi durante le mie visioni, ma vedevo scritti, sermoni, virtù e azioni umane prendere forma davanti a me, riflessi all'interno di una luce come fosse uno specchio d'acqua. E quando nelle visioni veniva la luce vivente, ogni pena e angoscia mi abbandonava. Fui consapevolmente una sciamana travestita da monaca. I simboli che tu, sorella Maria, attribuisci alla grande dea madre neolitica delle antiche culture native europee sono gli stessi che vedono coloro che assumono il fungo. Chi dipinge i simboli della dea attinge da sempre al mondo parallelo, in qualunque modo decida di raggiungerlo. Vi sono sorelle sciamane che si addentrano nella trance e nelle visioni anche attraverso il suono del tamburo, o la danza fino allo sfinimento e alla disidratazione, o anche attraverso la ripetizione di parole o frasi, il cui suono vibra su frequenze speciali, diverse frequenze di mondi paralleli. Vi dico che anche la sciamana che dipinse gli animali magici delle grotte in Altamira assumeva il fungo. Jung, invece, non ebbe bisogno di assumere sostanze psicotrope perché le visioni che ebbe erano le mie. Lui fu solo il tramite per riportarle nel mondo. Lui fu la mia memoria. Talvolta io stessa raggiungevo la trance cantando per ore o digiunando. Tuttavia, sebbene conducessi una vita morigerata e sana, non amavo le privazioni. Ho sempre curato il benessere del corpo e non desideravo la sofferenza, né, tantomeno, pensavo che fosse necessario espiare peccati inesistenti con crudeli atti di mortificazione del corpo. Io permisi alle mie figlie nel monastero di Bingen di sciogliersi i capelli e adornarsi di stoffe e gioielli. Ero fermamente convinta che la Viriditas, il nome che usavo per identificare la dea senza che si sapesse, amasse la bellezza. E si nutrisse della gioia delle sue figlie. La viriditas era per me la capacità di germinare e quindi di ricreare la vita. Ma quando prendevo il fungo, il mio corpo si riempiva di dolori, come accadeva agli antichi sciamani che hanno dipinto le caverne. Mi sentivo trafitta da frecce e lance, proprio come loro, e chiesi al mio caro Folmar di dipingere nelle mie visioni una donna trafitta ai fianchi da una spada, con zampe di uccello, a significare che stavo volando nel mondo parallelo. Vedevo esseri in parte umani e in parte animali, e li feci raffigurare a Folmar. Sono quelli che la neuroscienza degli uomini moderni chiama teriantropi. Vedevo anche le enormi pietre che aprivano l'accesso ad altre dimensioni, e anche quelle furono dipinte nel libro delle opere divine. Il principio attivo della pianta maestra ci conduce nelle profondità del nostro incosciente, laddove le immagini non hanno logica. Ricordo che mi muovevo dentro la foresta, cambiando dimensione, animali dai colori fosforescenti, felci giganti che mi accarezzavano il corpo e avevano vita e mi davano informazioni. Tutto era vivo e c'erano molti piani, dimensioni, mondi diversi in ogni visione, esseri di molti tipi e forme, conosciuti e sconosciuti. La visione dell'invisibile ha forma astratta, poiché il nostro cervello, non avendolo mai visto, non lo riconosce, pertanto non gli può dare una forma conosciuta. E poi provavo una sensazione di chiarezza e lucidità come non avevo da sveglia. C'era pace e sensazione di catarsi quando si espelleva l'oscurità. Viaggiavo a differenti livelli. La pianta prendeva la forma di una giovane donna che mi prendeva per mano e mi portava nel profondo fin dove potevo arrivare. A volte non riuscivo nemmeno a descrivere a chi disegnava tutto ciò che vedevo. Spesso per me era più facile comprendere senza usare la logica. Lasciai tracce del mio utilizzo del fungo per coloro che sarebbero state in grado di comprendere nei secoli futuri. Lo feci raffigurare nel libro della conoscenza, dopo una visione in cui gli occhi degli spiriti mi guardavano e un essere dei boschi deponeva nei canestri il fungo e una donna gravida, con un occhio rivolto agli altri mondi, viveva dall'interno la nascita di se stessa attraverso il suo stesso feto. Vidi la sacra vagina della dea rappresentata come un cosmo e seppi ancora una volta che la natura è nostra madre. E feci dipingere la ruota di medicina con le quattro direzioni e i quattro elementi che portano alla formazione della città divina. Nelle tavole consecutive, dalla sesta alla decima, dove si susseguono la pietra che è terra, la musica che è aria, l'acqua e il fuoco. La ruota di medicina si manifestava nelle mie visioni, dove Saturno, Giove e Marte erano nel cerchio di fuoco luminoso, mentre nel cerchio di fuoco nero stavano le tre stelle della cintura di Orion. Mercurio, Venere e Luna risiedevano nel cerchio di etere puro. Vedevo poi un cerchio di aria umida e uno di aria bianca e luminosa, uno di aria tenue con nuvole e una sfera centrale solida. All'est, la prima sfera era di fuoco luminoso, dove un leone versava rugiada soave su ciò che era arido. All'ovest, nel fuoco nero della seconda sfera, risiedeva un orso che tratteneva le acque e impediva loro di dissolversi. Al sud, nell'etere puro, che era la terza sfera, un leopardo era totem di forza e calore solare. Infine, al nord, nel cerchio di aria umida, che era la quarta sfera, un lupo era il guardiano che impediva alle tenebre esterne di oltrepassare il limite. Perché fui sciamana e alchimista. Il senso vero delle mie opere è solo nei disegni. Le parole servono unicamente a sviare il potere degli uomini. Ma ho cominciato il mio racconto dalla metà, anziché dall'inizio, perché più di ciò che feci è importante ciò che vidi. Le mie visioni, come hai detto, sorella Sabina, germinarono non solo nel libro rosso di Jung, ma anche in quell'altro misterioso testo manoscritto che ancora oggi l'umanità stenta a interpretare, se non in piccola parte. Quello che chiamano manoscritto Voynich. Quel manoscritto fu opera di una sorella alchimista e rappresenta così tante donne gravide nell'acqua perché è dedicato alla dea. Il verde dell'acqua e la viriditas e le donne nell'acqua rappresentano la vita che fluisce e si autorigenera. È molto chiaro se si guardano le pagine senza preconcetti. Il segreto di quel manoscritto era l'acqua, che potesse scorrere nelle stanze portando informazioni, memorie, purificazione e pace. Nessuno a quel tempo era cosciente del potere dell'acqua e dovette insistere molto per avere acqua corrente in tutte le stanze del mio monastero a Bingen. Gli antichi lo sapevano, ma al tempo in cui venni nel corpo di Hildegard se ne era persa la conoscenza e solo noi donne di medicina ricordavamo che l'acqua poteva essere caricata con le pietre, con il canto, con le preghiere, le formule frequenziali e che quindi il corpo, essendo di acqua in grandissima parte, poteva essere informato dai messaggi sottili del suono. Ebbi conferma di questa memoria in una visione dove tre fanciulle, i tre volti della dea, stavano a piedi scalzi in un bacino d'acqua. Ma è davvero opportuno cominciare dal principio. Nacqui in Renania, una terra verde e bella, ricca di boschi e fiumi. Amai la terra in cui vissi come Hildegard, a cavallo tra la fine del primo millennio e l'inizio del secondo, nel tempo che gli umani definiscono dopo Joshua. Come te, sorella Brigid, fui badessa di tre conventi, di cui due da me stessa fondati, ma poiché badessa è una femminilizzazione della parola abate, che viene da Abba, ossia padre nella lingua dei giudei, preferisco essere ricordata con il nome che mi diedero le mie figlie spirituali, Magistra. Finito Finché visse, Jutta, la conversa che mi fece da madre e che fu magistra prima di me, mi colmò d'amore. Quando lasciò il corpo, sentii moltissimo la sua mancanza, ma non ebbi tempo di soffrire, poiché fu lei stessa a dare istruzioni affinché succedessi come magistra al suo posto. Stavo bene nel convento benedettino. Amavo le mie figlie spirituali e loro amavano me. Le giornate trascorrevano tra preghiera, cura dei malati, studio e canto. Studiai tutti i libri di medicina su cui riuscivo a mettere le mani, le proprietà delle erbe, degli alimenti. Ciò che non potevo studiare lo sperimentavo direttamente su di me e sulle mie sorelle. Avevamo a Disibodenberg un grande orto officinale con tutte le erbe medicamentose conosciute a quel tempo. Tutti i più grandi personaggi dell'epoca mi scrivevano per avere consigli, non soltanto in merito alla salute, ma anche sui loro stati d'animo e patimenti. Corrado II di Svevia, Federico Barbarossa, i papi di Roma e perfino Bernardo di Chiaravalle, il quale aveva fondato il potente ordine dei monaci cistercensi e aveva appoggiato la nascita dei templari, essendo egli stesso un iniziato ai misteri occulti e uno dei più influenti uomini di quel tempo. Scrissi centinaia di trattati di medicina, cosmologia, filosofia. Fui musicista, poetessa e visionaria. Era mia convinzione che non si potesse mortificare il corpo senza avvilire l'anima, poiché corpo, mente e anima formano un insieme armonioso e inscindibile. Sostenni sempre che diventiamo ciò che mangiamo e che il cibo buono e sano è la miglior medicina per le sue qualità terapeutiche sottili. Naturalmente, all'epoca in cui vissi, gli alimenti erano ancora sani e non era ancora cominciato questo malcostume del tempo attuale, lo sfruttamento intensivo di terra e animali. Amavo in particolar modo mangiare il farro e lo prescrivevo ai malati che venivano al monastero in cerca di aiuto. Insieme a lattuga, finocchio, mandorle, castagne, io stessa spesso cucinavo le buone zuppe di farro e scrivevo poi le ricette. Ne amavo una in particolare che preparavo con finocchio, fagiolini, carota, sedano, prezzemolo e farro, appunto, e per insaporire mettevo timo, artemisia e dragoncello. Un unico pasto nel primo pomeriggio, a base di minestra di cereali e frutta e con attitudine mentale e spirituale serena, così ci nutrivamo nel monastero. La buona digestione è indissolubilmente legata a uno stato d'animo di positività. Così, prima di cominciare a mangiare, ci raccoglievamo un attimo per calmare i pensieri e le emozioni nel ringraziamento alla Madre Terra. Questo era il modo sciamanico di alimentarsi, con rispetto e gratitudine. Scrissi 4 volumi dedicati agli alimenti, che si diffusero col nome di Medicina dei Semplici. Tra le erbe selvatiche utilizzavo tanto l'ortica. Oh, ne lasciai scritta la preparazione. La usavo come tintura madre, estratto oleoso, succo fresco o infuso per alleviare intossicazioni e parassiti a reni, vescica, prostata, per dare sollievo a reumi e dolori articolari e come tonico per chi aveva il sangue povero. Giunsi a queste conclusioni attraverso un costante lavoro di autosservazione, disciplina e sperimentazione diretta, redigendo ricette e rimedi che nei tempi moderni chiamerebbero medicina olistica. Poi, però, ai 40 anni della mia vita terrena, venni colpita da una malattia. Come le maci, le sciamane dell'antico popolo Mapuche ricevono attraverso una malattia la loro chiamata. Così io ricevetti dalla Dea l'ordine di scrivere le mie visioni e la musica che sentivo nella testa. Non appena accettai, le forze mi tornarono, ma il compito che la Dea mi diede non era facile da realizzare, poiché, a parte il mio amato Folmar, nessuno mi credeva e l'abate di Disibodenberg tentò sempre di ostacolarmi in tutti i modi. Allora scrissi a Bernardo di Chiaravalle e lui intercesse per me presso il Papa di Roma, che mi diede l'autorizzazione ad annotare ciò che vedevo, da sveglia e da lucida, con l'occhio interiore. Il monaco Folmar, mio sostenitore e compagno d'anima, come per te, sorella Brigid, fu il vescovo Conlet a Cildara, fu il redattore dei miei libri. A lui raccontavo le mie visioni e lui, con pazienza infinita, trascriveva e disegnava seguendo le mie indicazioni. Ero già avanti negli anni quando, per completare la mia prima grande opera, mi isolai a Rupertsberg, sul monte dove poi fu edificato il monastero di Bingen. Il nome che mi danno viene da lì. Un giorno, ad Isibodenberg, si presentò la margravina von Stade, conducendo sua figlia Richardis, anch'ella come me di nobile nascita. Richardis restò con noi e, poiché sapeva leggere e scrivere anche in latino, affiancò Folmar nel redigere le mie opere. Dopo qualche anno mi resi conto che noi sorelle non potevamo più condividere lo stesso monastero con i monaci. Non eravamo al sicuro, non eravamo libere di praticare le arti come desideravamo, ed io volevo un edificio per noi sole, dove poter riscrivere la regola affinché onorassimo la viriditas con la bellezza, il canto e la danza, anziché con la rigidità, le privazioni e le sofferenze autoinflitte. Ebbi una visione, un luogo sulla montagna alla confluenza di due fiumi, la Nahe e il Reno. Un luogo incantevole dove avremmo potuto vivere serenamente, padrone di noi stesse, nel punto di incontro dei due fiumi, laddove c'era la roccia di Lorelai, una mitologica sirena di fiume, una figura femminile del mondo magico che sempre adombra l'antico sapere e potere delle donne. Poco distante da lì passava la ley line del Cammino di Compostela, che io conoscevo bene perché nella mia terra era molto popolare. I nostri monasteri furono grandi diffusori del cammino che da 10.000 anni attraversava l'Europa, partendo dal Mar Nero per raggiungere l'estremo ovest, dove il sole passa dall'altra parte e dove si sperimenta l'unione dell'inizio con la fine. Fu da questo cammino che nacque l'Europa, una civiltà caratterizzata dalle divinità femminili che proteggevano i pellegrini. Europa è il nome di una dea. Ma l'abate mi negò tutto. Prima il diritto a partire e poi, una volta costretto dall'intercessione del vescovo di Magonza, mi negò le donazioni delle famiglie delle mie figlie spirituali, che sarebbero servite a sostentarci. Ancora una volta, però, la margravina von Stade mi venne in aiuto, garantendo con la sua influenza che ci fossero attribuite terre e un mulino. Come voi, sorella Brigid, partimmo. Eravamo in 18 e da Disibodenberg raggiungemmo il luogo esatto della mia visione sul colle Rupertsberg a Bingen, dove alloggiammo in tende fino a che non fu pronta la nostra nuova casa. Avevo 52 anni. In seguito il Barbarossa mi conferì pieni ed esclusivi diritti di proprietà su Rupertsberg, nonché la sua personale protezione. Questo perché mi mantenni neutrale durante gli scismi che egli creò, eleggendo ben tre antipapi che si contrapponevano ai papi di Roma. L'imperatore teneva al mio appoggio e alla mia opinione, e non contrastarlo equivaleva a prendere una precisa posizione, seppure non ufficiale. Il Rupertsberg, però, sebbene mi fosse stato indicato dalla dea per restare collegata a te, sorella Brigid, non era verde e rigoglioso come la terra del monastero di Disibodenberg, dove ero cresciuta. Nonostante la sua vicinanza ai fiumi, l'area che la visione mi indicò era piuttosto secca e asciutta. La mia sfida fu ancora più sottile e potente, poiché portavo in me la viriditas e la humiditas, che avrebbero infuso vita al monte. Intanto Richardis cresceva in conoscenza, grazia e bellezza, e io l'amavo come una madre orgogliosa può amare la figlia prediletta. Mi era sempre vicina anche quando dovevo prendere decisioni importanti e avevo bisogno di consiglio. Ma quando, a causa di interessi politici, la famiglia di Richardis manovrò per farla diventare badessa a Bassum, un monastero vicino Brema, molto lontano quindi da me e da Bingen, mi si spezzò il cuore. Lottai disperatamente affinché non se ne andasse, ma lei ubbidì al volere di sua madre e non ci fu nulla che io potessi fare per convincerla. Fui costretta a letto per molti giorni e la nostra separazione fu talmente lacerante da causare anche la morte di Richardis nel giro di poco tempo. Non rividi mai più la mia diletta. Ma continuai a scrivere e a dettare a Folmar ogni giorno, anche se dopo la morte di Richardis divenni molto triste. Su tavolette incerate prendevo nota in fretta delle visioni e comprensioni che mi giungevano dal centro delle mie cellule di memoria risvegliata. A Rupertsberg volli un grande scriptorium dove Folmar e le mie figlie, che sapevano scrivere e miniare, mettevano su pergamena in bella calligrafia i segni che velocemente avevo tracciato sulla cera. La mia fama di guaritrice si espanse a macchia d'olio, tanto che pellegrini in cerca di guida spirituale e di guarigione dalle malattie arrivavano da molto lontano, fin dall'estremità dell'Europa, per incontrarmi. Non guarivo solo i loro corpi, ma i loro spiriti, poiché il sollievo al dolore che portavano le polveri di pietre, gli infusi di erbe, le fumigazioni di funghi e spezie, sollevava l'anima ben al di sopra delle umane meschinità e costringeva gli ex malati a guardare la vita da un'altra prospettiva. In essi non c'era più voglia di combattere, di conquistare, di violentare, di sopprimere, di accumulare. Molti di loro si volgevano a una vita semplice, contadina, contemplativa, in armonia, in silenzio, in pace con la viriditas. E sì, compii anche guarigioni miracolose. Dopo 10 anni fondai un secondo monastero, identico al primo, dall'altra parte del Reno ad Aibingen. Sentivo la necessità di avere due case speculari rispetto all'acqua, dove i due fiumi, incontrandosi, formavano la V della sacra vagina della dea. Le giovinette che venivano a bussare alla porta dei due conventi perché volevano imparare da noi, studiare, essere libere e salvarsi da matrimoni combinati, erano sempre più numerose. E io le accoglievo tutte, erano tutte mie figlie e sempre lo saranno. All'epoca della sua fondazione, Bingen costituì un modello nuovo di comunità. Ricordo che di noi scrisse un monaco fiammingo, tale Viberto, sotto la saggia guida di Hildegarda. La comunità di Rupertsberg vive nella gioia e nella concordia, suscitando ammirazione ovunque. La madre circonda le figlie con tale amore e le figlie si sottomettono alla madre con tale reverenza che si stenta a distinguere se siano le figlie o la madre a riportare la vittoria. Praticano con zelo letture e canti e le si può vedere intenti a scrivere libri, a tessere paramenti sacri o dedite ad altri lavori manuali. Finché, già anziana, la dea nel suo aspetto di saggia mi comunicò che sarei dovuta partire in predicazione. Negli ultimi anni della mia lunga vita divenni predicatrice, unica donna in mezzo agli uomini, instancabile viaggiatrice come te, sorella Brigitte. Io percorsi a cavallo tutta quella grande terra per insegnare alla mia gente. Dal pulpito del Duomo di Treviri apostrofai duramente chi deteneva il potere senza esserne degno e i rappresentanti di Dio in terra che dal potere si lasciavano corrompere. Mi proponevo di vivere e diffondere un nuovo ideale di vita monastica, non più rigorosamente claustrale, ma aperta ai viaggi e alle relazioni tra le genti, vicina al popolo, quello stesso ideale che tu, sorella Gabriela, diffondesti molti secoli dopo nel tuo modello scolastico all'aria aperta. Quei viaggi a cavallo riducevano in poltiglia il mio corpo già provato dai mali di testa e dalle catalessi che ogni tanto si impossessavano di me. Quando scendevo dalla sella ero tutta dolorante e dovevo prendermi il tempo di riposare per poter poi parlare alla gente riunita ad ascoltarmi. Durante i viaggi mi fermavo a meditare e a ringraziare ogni volta che incontravo una sorgente o un ruscello. Entravo con i piedi nell'acqua per riunirmi alla madre, del cui sostegno avevo estremo bisogno. Il canto degli uccelli e delle foglie era per me una musica, una benedizione. Spesso erano proprio quei momenti di silenzio e simbiosi in cui il mio caro Folmar mi lasciava quieta, allontanandosi un poco, che mi nutrivano dell'ispirazione che poi avrei tradotto in parole di purezza, lealtà, onestà, dai pulpiti e nelle piazze alla gente raccolta in mio nome. Ma infine, anche il mio carissimo compagno d'anima mi lasciò. I suoi occhi non vedevano più. Lo accompagnai attraverso la soglia e mi preparai ad andare anche io, poiché non avevo più visioni né dolori. Compresi da questo che era venuto anche il mio momento. Uscii ancora da sola nella foresta che amavo tanto, per raccogliere erbe, ma soprattutto per imparare dagli alberi l'umiltà e la dignità del perdere le foglie senza rumore. Mi preparavo a perdere le mie. Le mie figlie mi cantavano spesso i canti che io stessa avevo composto e che avevamo tante volte usato per guarire l'anima dei malati, mettendo nell'acqua delle loro cellule la memoria della salute e dell'armonia contenuta nelle note. Ebbi l'amarezza negli ultimi tempi di sapere che si diffondevano male lingue sui miei monasteri. Il fatto che fossero ben governati e ricchi senza una guida maschile infastidiva il mondo degli uomini. Poco prima di lasciare il corpo di Hildegard, mi opposi ai prelati di Magonza che mi ordinarono di seppellire un nobile scomunicato che avevamo accolto e sepolto nel nostro piccolo cimitero e gettarne il cadavere fuori dalle mura in terra sconsacrata, pena la scomunica del nostro stesso monastero. Ma io percepii chiaramente che se avessi obbedito e buttato il cadavere fuori dal cimitero, tale azione avrebbe minacciato la nostra casa come una grande nube nera. I corpi devono riposare nel grembo della madre, e se io avessi obbedito all'ordine dei prelati, avrei disobbedito al ben più grande volere della dea. Con il bastone pastorale tracciai una croce nell'aria sulla sua tomba, poi diedi ordine di cancellare ogni traccia dal terreno, in modo che non fosse possibile identificare il luogo. Passai la porta dell'ovest, oltre 80enne, tra le lacrime delle mie figlie per le quali la mia guida fu insostituibile. Infatti, dopo la mia dipartita, il monastero, che tanta fatica e volontà mi era costato e che tanto avevo amato, andò lentamente spegnendosi come un corpo senza anima. Le guerre e gli incendi poi operarono il resto della distruzione. Dopo la mia uscita dal corpo, tutti gli edifici legati alla mia vita terrena sono andati perduti, ma io ho lasciato parte della mia essenza nella natura, nella foresta, all'ombra delle querce, le piante sacre dei druidi di cui Rupertsberg è ricco. Tra le piante spontanee che crescono rigogliose sulle rive del Reno e sotto le vigne, sulle colline dove ho camminato con le mie sorelle in cerca di erbe, malva, edera, calendula, melissa, aneto, achillea mille foglie, primula, polmonaria, rosa canina, salvia sclarea, il tanaceto, la betonica, il finocchio selvatico, l'origano, la camomilla romana, il geranio selvatico, le more, l'ortica, il timo e la mentuccia. I prati e le colline in luglio sono un tripudio di colori e vengono lasciate appositamente aiuole di fiori spontanei in mia memoria oggi. Oh, com'era bello distillare oli e tinture nel nostro laboratorio officinale! Che profumo usciva dai mazzi di erbe appese alle travi, essiccare e dai calderoni dove riposavano gli infusi! Quando lavoravo lì con le mie figlie, i pomeriggi passavano senza che ce ne accorgessimo, e quando la campana suonava all'ora della preghiera serale, ci sembrava di essere appena entrate. Si creò una leggenda, secondo cui, dopo la mia uscita dal corpo, in cielo si osservò un enorme cerchio di luce che racchiudeva una croce fatta di due arcobaleni, un simbolo ben noto agli esoteristi, che non aveva nulla a che vedere con la croce del martirio di Joshua. Scrissi io stessa la musica per il mio funerale e lasciai precise istruzioni per l'esecuzione, affinché la musica mi aiutasse nel mio viaggio di ritorno al grembo della madre. Anche la musica mi giungeva tramite le visioni. Nella mia testa la sentivo già perfettamente intrecciata al testo, così da potersi tradurre immediatamente in immagini visive. Volevo rendere udibile a tutti il suono poderoso e pieno di grazia della luce vivente. Come per te, sorella Sabina, anche per me tutto era suono, inclusa la medicina. La vita stessa era sinfonia celeste e terrestre insieme, e il canto doveva per forza essere un'attitudine naturale in ogni creatura sana e in armonia con la dea. Le mie figlie cantavano tutte, nessuna esclusa. Dissimulai sempre il profondo sapere che mi veniva dal risveglio di memorie, E lo attribuì interamente alla grazia divina per non urtare la suscettibilità maschile, ma non fui affatto ingenuo e ignorante come solevo definirmi. Io sapevo e vedevo, anche se non potevo confessare apertamente le mie fonti. Se avessi proclamato la mia sapienza anziché la mia ignoranza, sarei stata sicuramente bloccata dalla Chiesa di Roma. Avendo io invece trasmesso le mie parole sotto le innocenti sembianze del linguaggio cattolico, esse non furono contraffatte, né la mia immagine insozzata, come fu quella di Miriam Magdal. In alcune lettere lasciai riferimenti esoterici a chi sapesse coglierli. Sì, un cervo che agile si accosta alla fonte dell'acqua viva, un'aquila che guarda il sole. Ero consapevole che il movimento rotatorio all'interno dell'atomo assomiglia a quello di un minuscolo sistema solare e che il Sole è al centro del nostro sistema solare in risonanza con il plesso solare del corpo di carne. Non a caso avevo scritto che il corpo e l'anima vivono insieme e si fortificano a vicenda come fa il firmamento con i pianeti. La circolazione sanguigna e linfatica per me non erano misteri. Avevo grande rispetto per il corpo, senza il quale era impossibile fare esperienze che costituissero la base della conoscenza. Come detta la via sciamanica. Sapevo che l'armonia interiore poteva essere ritrovata soltanto risintonizzandosi con quella esterna della natura e del cosmo. Ai bugiardi e ai collerici facevo tenere in bocca un diamante. Usavo un topazio, lasciato in infusione in una bevanda, per neutralizzare i veleni o immerso nel vino per 3 giorni e 3 notti, doveva poi essere appoggiato sulle palpebre prima di coricarsi, per combattere il mal di occhi. Mentre una perla sciolta in poche gocce di aceto e ingerita era un ottimo rimedio contro il mal di testa. Strofinavo una ametista sul viso per eliminarne le macchie. Per il mal di cuore prescrivevo di portare una pietra di diaspro sul petto fino a quando non si fosse riscaldato con il calore del corpo. Il cristallo di rocca, immerso in acqua, serviva per il mal di pancia e di stomaco. Agivo come qualunque sciamana collegata ai mondi invisibili, che ha visioni, usa piante psicotrope, conosce i rimedi naturali e canta non per guarire il malato, ma per aiutarlo a ritrovare da solo la perduta strada della salute. Agivo come una sciamana che canta mentre prepara erbe e impiastri, unguenti e argille, che prega mentre usa pietre di potere, che invoca la dea e gli spiriti mentre compie fumigazioni, che ha una visione compiuta della cosmogonia e dell'immanenza divina in ogni particella dell'universo, che sa come usare le forze naturali visibili e invisibili per riportare l'armonia laddove si era interrotta. E che infine è consapevole che è l'essere umano a creare la sua propria realtà attraverso il pensiero. Nella mia terra ci chiamavano sibille, ma questo non cambiava la sostanza di ciò che eravamo, sciamane. Siamo contemporaneamente sacerdotesse e scienziate, guaritrici e madri, botaniche e artiste. La differenza è che io misi per iscritto il mio sapere, mentre le altre donne lo tramandavano oralmente. Le mie conoscenze non furono più grandi di quelle di qualsiasi sciamana, poiché tutte siamo collegate con la fonte stessa del sapere e sappiamo come connetterci in ogni momento con questo archivio per attrarre l'informazione che ci serve. La mia fortuna è dipesa dal fatto che ho operato nell'unico modo accettabile dal sistema maschile, ossia in seno alla Chiesa di Roma, e attribuendo a un dio maschio tutto ciò che divulgavo. Per me, come per ogni sciamana e alchimista di ogni tempo, era la creatura umana il centro dell'universo, e anche se questo era in contraddizione con il dogma che professavo, aveva invece perfettamente senso nella dimensione che nell'attuale tempo del mondo chiamano quantistica. Ogni forma vivente è parte del corpo della dea, intesa come unità di flusso della vita. Ma ogni essere pensante crea il suo proprio universo sensoriale attraverso i suoi stessi pensieri che si condensano diventando percepibili. Ebbi 2 visioni conseguenziali nelle quali vi era un androgine al centro della creazione e questa includeva non solo la Terra e tutti gli elementi, ma anche certe stelle, in particolari aspetti e allineamenti che indicavano 2 momenti diversi dell'evoluzione umana. Come ogni alchimista, tuttavia, sapevo bene che le stelle e i pianeti non sono nient'altro che proiezioni esterne di nostre componenti. Quando prendevo il fungo che mi aiutava a viaggiare senza disagi, sapevo che stavo solo rafforzando la naturale capacità del mio corpo di produrre sostanze psicotrope per entrare nei mondi paralleli, le cui porte sono chiuse alla percezione ordinaria. Conoscevo bene le tre stelle allineate della cintura di Orione, passaggio tra le dimensioni e proiezione della nostra triade ghiandolare, ipotalamo, ipofisi, epifisi. Le feci raffigurare da Folmar in più di una tavola. Mentre ero dall'altra parte, vedevo anche alfabeti sconosciuti, di cui mi servii senza esitazione per occultare certe informazioni ai non meritevoli. Alla mia morte, le mie opere sono state dimenticate per 1.000 anni, poiché questa è la sorte che tocca a tutte le sorelle, anche le più grandi, nel mondo duale degli uomini. La mia percezione della vita come unità mi portò la necessità di inventare parole per esprimere ciò che sentivo, scoprivo, ricordavo. Il latino che usavo per i libri era inadatto, poiché veniva da una concezione del mondo maschile dove le donne erano subalterne. Come potevo esprimere in quella lingua che ci disprezzava la dolce consapevolezza che dentro di me albergava riguardo a ciò che la dea manifestava attraverso noi? La mia lingua ignota era un linguaggio costituito da puri concetti, espressi più dal suono che da un significato razionale. Così ho cercato di onorare la viriditas con ogni mezzo espressivo a mia disposizione, nella mia musica, nei miei scritti e nelle regole con cui guidavo la vita mia e delle mie sorelle, non poteva in alcun modo essere usata la lingua degli uomini. Chiamai viriditas la vita, il flusso vitale costante ed eterno che si manifesta in molteplici forme. Con le sue sole forze l'uomo non può creare la vita. Può solo servirla, poiché la vita è qualcosa che si manifesta ovunque, dentro e fuori. La viriditas, unita alla humiditas, rigenera continuamente la creatura umana fino alla vecchiaia. Questa forza vitale è ciò che nelle religioni maschili viene chiamata Dio e che le sciamane riconoscono come la dea e dello spirito che invocano nelle guarigioni per aiutare colui o colei che sente dolore a sostenere la fase di trasmutazione che il suo corpo sta vivendo. La mia capacità di entrare in empatia con ogni forma di vita, con materna compassione, mi rendeva adatta a prendere su di me la malattia di chi mi stava di fronte e a trasmutarla nella mia propria carne, a patto che l'ammalata comprendesse cosa stava accadendo e vi partecipasse, almeno con l'intenzione. Usando una metafora, noi siamo le sponde del fiume e la viriditas è l'acqua che vi scorre dentro. Intendevo la viriditas quando scrissi: Io, forza suprema e ardente, con saggezza e giustizia ho organizzato l'universo. Io, vita ardente dell'essenza divina, mi infiammo nella bellezza dei campi, splendo nelle acque e ardo nel sole, nella luna e nelle stelle. Con ogni soffio d'aria, come con la mia presenza invisibile, risveglio ogni cosa alla vita. L'aria vive nel verdeggiare e nel fiorire. Le acque scorrono come se vivessero e così io riposo in tutta la realtà come forza ardente. Tutto brucia attraverso me, tutto vive nella sua essenza e in essa non vi è morte, perché io sono la vita. In ogni cosa infondo la vita, cosicché nulla è di natura mortale. Io sono la vita integra che non è nata dalle pietre, non è fiorita dai rami, non ha radice nella capacità umana di procreare, anzi, è la vita intera ad avere in me le sue radici. Così servo e aiuto, perché tutta la vita si infiamma attraverso me. Sono la vita eternamente uguale a se stessa, senza inizio né fine. Nelle tavolette che suggerivo a Folmar era costantemente presente l'aspetto femminile. Mi figuravo il cosmo come un grande uovo che una dea riscalda, feconda e rende vivo, contenendolo in una grande vagina. La malattia non esiste, sorelle, lo sappiamo bene. Quando sosteniamo che il corpo manifesta uno squilibrio che deve essere compreso e riequilibrato, lo diciamo a esclusivo beneficio di chi non è in grado di comprendere l'una. Infatti questa interpretazione è ancora duale perché prevede che ci sia un modo giusto e uno non giusto del corpo di funzionare. La stessa parola rimedio suggerisce che si debba correggere qualcosa che è fuori posto, ma nella dimensione della Dea, che è una, tutto ciò che accade è giusto e perfetto in ogni istante. La natura non sbaglia e il corpo nemmeno. Il sintomo, sia fisico che emozionale, è solo un segnale che il corpo sta elaborando delle informazioni. E se, pur sapendo questo, somministravo medicamenti, è perché grazie ad essi il corpo veniva accompagnato nel suo cammino verso l'unità, anche se il transito era doloroso. Le sciamane somministrano erbe perché esse aprono la porta dell'intuizione riguardo a ciò che il corpo in quel momento sta elaborando. Il corpo è il nostro laboratorio alchemico. E nel laboratorio sono previsti anche cattivi odori, fumi e scorie. Per me il peccato era la deviazione dalla via unitaria dell'armonia e dalla connessione con la divina viriditas. Il peccato era il pensiero duale che separa il corpo dall'anima e che rinnega la bellezza del corpo e il piacere della carne come strumento per onorare la vita. Ebbi diverse visioni, ma osservai anche le mie esperienze personali sul piacere e sulla fertilità femminile, sul concepimento e sul parto. Per questo fui tanto sicura nel negare ogni validità alla mortificazione del corpo, che a quel tempo sembrava l'unica forma lecita di spiritualità. Nei miei libri di scienza sostenni che la sessualità femminile è forma sublime di creatività e mi occupai con grande attenzione della salute delle donne. Come te, sorella Sabina, anche io sapevo che rinnegando il corpo si rinnega la vita stessa che viene in lui custodita. Nei miei scritti scientifici documentai che sulla Terra gli esseri umani, uomini e donne, hanno nei loro corpi il seme della fecondità da cui nascono genti diverse. La donna ha un tempo in cui si rivela l'umore che è in essa e che si diffonde in essa col calore dell'umido vitale della viriditas. Infatti, se non avesse quel calore, l'umido vitale che la fa vegetare, rimarrebbe sterile come l'arida terra che non permette la coltivazione di nessun frutto. Nella donna il piacere è paragonabile al sole, che con dolcezza, lievemente e con continuità imbeve la terra del suo calore affinché produca i frutti, perché se la bruciasse in continuazione, nuocerebbe ai frutti più che favorirne la nascita. Così nella donna il piacere, con dolcezza, lievemente ma con continuità, produce calore, affinché essa possa concepire e partorire, perché se bruciasse sempre per il piacere, non sarebbe adatta a concepire e generare. Perciò, quando il piacere si manifesta nella donna, è più sottile che nell'uomo, perché il suo fuoco non arde in essa con la stessa forza che nell'uomo. La prima madre di tutta l'umanità fu fatta a somiglianza dell'etere, perché come l'etere contiene in sé tutte le stelle, così essa, integra e intatta, conteneva in sé tutto il genere umano che avrebbe generato senza dolore, poiché le fu detto: crescete e moltiplicatevi. Ebbe una mente leggera e acuta, e una vita fatta per il piacere, perché il peso della terra non la opprimeva. Così scrissi. Naturalmente non ho mai pensato che le donne fossero peccatrici o seconde agli uomini e che fosse loro dovere soffrire per espiare il peccato che chiamavano originale. Mi ha sempre fatto orrore il veleno e l'odio con cui gli uomini ricompensavano il miracolo del dare la vita. Così io, Hildegard, figlia di Mor Riogain, che ho riportato le memorie del cibo sacro e della vita una nella carne, viaggiando nel multiverso, in questo sacro cerchio, ho parlato. Le donne, come spinte da un unico impulso, si alzarono tutte insieme e si strinsero in cerchio intorno a Hildegard, baciandole le mani una alla volta. Il suo lavoro era stato così grande e il suo esempio così profondo che tutte loro la riconobbero come maestra tra le maestre. I loro corpi cominciarono a muoversi, oscillando, mentre intonavano uno dei sacri canti da lei composti. Danzarono intorno al fuoco per un lungo momento, creando figure e mandala coi loro passi, alzando e abbassando le braccia per invocare gli spiriti guardiani e risuonando con le fiamme che si muovevano insieme alle loro schiene. Poi tornarono ciascuna alla sua pietra, fecero passare la ciotola con l'acqua per bere e sedettero tutte tranne Gabriela. Non era facile parlare dopo Hildegard, ma Gabriela, alta e fiera, con il suo volto da regina nera, allungò le braccia verso il sacro fuoco, aspirandone profondamente l'odore, poi chiuse gli occhi per un lungo momento e si preparò.